la moglie di Potifarre, una donna dominata dal sesso. La moglie di Potifarre aveva tutto. Aveva un marito che occupava una posizione elevata quale ufficiale del faraone. Viveva in una casa spaziosa e lussuosa. Nuotava nell'abbondanza, aveva cibo e vestiti. Aveva al suo servizio degli schiavi che provvedevano ad esaudire i suoi desideri. Ma era una donna viziata. Come egiziana, godeva di molta libertà, più di ogni altra donna del suo tempo. Si potrebbe concludere che fosse molto felice, ma questa risoluzione si dimostra infondata perché la situazione reale era diversa. E è stato detto che le circostanze non fanno una persona ma la rivelano. Questo è vero della moglie di Potifarre. Nelle scritture essa appare in rapporto con Giuseppe, il capo degli schiavi di quella casa. Giuseppe, figlio di Rachele e di Giacobbe, arrivato nella casa di Potifarre dopo essere stato venduto schiavo dai suoi fratelli, era un uomo di una bellezza sorprendente. Ma la vita interiore di Giuseppe era ancora più singolare del suo bell'aspetto, perché egli camminava nel timore dell'Eterno. Molte volte Dio gli aveva rivelato il futuro per mezzo di sogni. E quella era una delle ragioni per cui i fratelli erano gelosi di lui. Essi pensavano che egli li guardasse con disprezzo, e quando si accorsero anche che il loro padre favoriva Giuseppe, la loro ira e invidia raggiunse il colmo. Essi si sbarazzarono di lui vendendolo a dei mercanti che passavano di lì. Tuttavia, fu molto chiaro che l'Eterno Dio era con Giuseppe, perché dovunque egli andasse, la benedizione di Dio era con lui. Perciò, quando Potifarre lo comprò come schiavo, la sua casa ne fu benedetta. Fra lui e il suo maestro nacque una relazione di reciproca stima e rispetto. In conseguenza di ciò, le responsabilità di Giuseppe aumentarono fino al ruolo di capo dell'intera casa. La moglie di Potifarre, che a prima vista sembrava possedere tutto ciò che una donna poteva desiderare, era vuota interiormente, non aveva uno scopo per cui vivere. Aveva troppo tempo libero e non sapeva come occuparlo. Era sposata ad un uomo che si dedicava completamente al lavoro. La Bibbia non parla di bambini. Ma se ce ne fossero stati, probabilmente sarebbero stati affidati alle cure di una governante. Forse la moglie dell'ufficiale del faraone era offesa e delusa per il fatto che il marito non le dava le attenzioni che lei avrebbe desiderato. Viveva una vita vuota che cercava il suo scopo. Aveva un cuore vuoto che cercava soddisfazione. La moglie di Potifarre alla fine mostrò i desideri che erano nel suo cuore. Non era riuscita a capire che il carattere interiore di Giuseppe, la sua giustizia, la sua serenità, erano piene di attrazioni, non solo la sua bellezza fisica. Non poteva capire che la cosa speciale in lui era il suo cammino con Dio. Evidentemente no, perché umiliò se stessa nell'offrire il suo corpo a Giuseppe, e non una volta sola, ma ripetutamente. Lei cercò di imporgli se stessa e il suo fisico. Pensava di trovare soddisfazione nel sesso. Non sapeva che il desiderio altro non era se non il prodotto della passione, né che un eccitamento delle emozioni l'avrebbe consumata, se l'atto non fosse stato ben radicato nell'amore e nella sicurezza del matrimonio. Alla creazione Dio aveva detto: «Per questa ragione l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e diventeranno una sola carne». Così, la sessualità è stata messa da Dio nell'ambito del matrimonio, nel calore e nella sicurezza dell'amore da esso emanato. Diventare una sola carne deve essere uno risultato dell'amore. La decisione di lasciare i propri genitori e di cominciare una propria casa provvede il giusto ambiente per l'atto culminante dell'amore sessuale. Senza questi requisiti il sesso è solo una passione che consuma, che può degradare anche l'essere umano a livello di animale. Questo sfocia nell'accusa di se stessi, nella solitudine, nella vergogna. Porta anche ad una solitudine ancora più grande. Perché quando il desiderio, per altre sensazioni, per altre passioni sensuali, si stabilisce, ha per risultato ultimo la completa desolazione. Questo diventa un circolo vizioso di miseria. Non si può sorvolare sui problemi della moglie di Potifarre, anche perché essi non potevano trovare una soluzione nel sesso. La sensualità usata in questa maniera è un inferno. Giuseppe giustamente mise la tentazione nella sua giusta prospettiva. Egli non la minimizzò, la chiamò per quella che era: peccato. Egli parlò del grande rispetto che aveva verso il marito di lei, ma ciò che più gli importava era Dio. Come posso fare questo peccato contro Dio? Chiese. Giuseppe aveva ragione. La fornicazione e l'adulterio sono peccati davanti a Dio. Ogni atto sessuale fuori del matrimonio è un peccato che Dio aborrisce. L'immoralità è uno dei colpi mortali che vengono direttamente dall'inferno e distruggono la persona che vi si abbandona. Giuseppe ne era ben conscio, perché camminava con Dio. Egli sapeva che avrebbe fatto dispiacere al suo creatore. Colui che commette adulterio con una donna è privo di senno. Chi vuole distruggere se stesso fa questo. Ferite e disonore lo troveranno, ed il suo disonore non sarà cancellato. Salomone avrebbe scritto queste parole nel libro dei Proverbi molti anni più tardi. Giuseppe ne aveva già capito il senso e aveva applicato questo principio alla sua situazione con la moglie di Potifarre. Il fatto che la moglie di Potifarre non conoscesse il Dio di Israele non era una scusa. Essa, come ogni altra persona, aveva innato dentro di sé il senso della moralità. Stava disubbidendo alla legge della vita che Dio ha dato a tutte le creature del mondo alla creazione. La moglie di Potifarre diede prova di questo quando travisò la verità dopo che Giuseppe le era spinta. Essa lo accusò dell'immoralità che lei aveva intenzione di compiere. La rapida fuga di Giuseppe, prova della sua purezza di carattere, la indusse a compiere un altro peccato. Essendo sua superiore, aveva deciso senza alcuno scrupolo di rovinargli la carriera e di macchiarne il buon nome. Questo causò a Giuseppe molti anni di prigionia. Egli indubbiamente fu molto ferito dalle accuse disoneste. Probabilmente si sentì abbandonato, anche perché in apparenza Potifarre non investigò la situazione. Per quanto evidentemente Potifarre non credette alla moglie, altrimenti avrebbe messo certamente a morte Giuseppe. Giuseppe non si lamentò. Con gioia scoprì che le mura della prigione non potevano escludere Dio, il quale era con lui come lo era stato nella casa di Potifarre. Di nuovo, Giuseppe fu una benedizione per quelli che erano attorno. Dopo vari anni, finalmente fu ricompensato per la sua lealtà a Dio e al suo padrone. Gli fu dato il governo di tutto l'Egitto. Egli era al secondo posto dopo il faraone, il capo dell'Egitto. Poi sposò la figlia di faraone e divenne suo genero. Egli divenne il protettore del popolo. In seguito poté salvare i suoi fratelli quando si trovarono nella carestia, proprio coloro che l'avevano tradito. Giuseppe non era stato il perdente. Lo erano stati la moglie di Potifarre, quando ha cercato di sedurlo, e i suoi fratelli che l'avevano venduto. Della moglie di Potifarre non sappiamo nient'altro. Nonostante la grandezza del suo peccato, essa non mostrò pentimento né chiese perdono. Sembrava che non desiderasse alcuna conoscenza di Dio, anche se Dio era così desideroso di riempire la sua esistenza di gioia e soddisfazione, tanto da averla toccata attraverso la persona di Giuseppe. Lei avrebbe potuto realizzare la vittoria su tutti i suoi desideri sensuali se li avesse riconosciuti in tempo come peccato. Avrebbe potuto riguadagnare il controllo della sua mente e del suo corpo dopo essere stata respinta la prima volta da Giuseppe. Avrebbe potuto domandare a Giuseppe del suo Dio, del Dio che guidava la sua vita. Avrebbe potuto riempire le sue ore preziose con molto più profitto. L'ozio diventa il padre dei vizi. La moglie di Potifarre trascurava uno dei doni più preziosi della vita, il tempo. L'ozio diventa il terreno per nutrire dei pensieri peccaminosi. Solo dopo aver ceduto ai pensieri malvagi nutriti nell'ozio, la moglie di Potifarre desiderò mettere in atto il suo malsano proposito. Poiché le azioni sono frutto dei pensieri, furono proprio questi la sorgente della sua caduta. Una persona diventa ciò che pensa. La tentazione alla quale cedette la moglie di Potifarre non è fuori dal comune. Milioni di persone sono oggi tentate nella stessa maniera. perché Satana continua ad andare in giro come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Il diavolo non cambierà mai carattere. La moglie di Potifarre permise alla tentazione di trasformarsi in peccato, perché non resisté ai suoi desideri, né cercò di frenare i suoi impulsi, ma piuttosto lasciò che essi la conducessero al peccato. Essa non aveva alcun desiderio di correggersi. Avrebbe avuto il tempo, l'intelligenza e la possibilità di usare la sua vita in modo positivo, ma fallì. Nessuna buona parola può essere detta di lei perché ha vissuto senza lasciare alcuna buona impressione dietro di sé. Come ha detto qualcuno, secondo il pensiero biblico, due esseri umani che hanno condiviso l'atto sessuale non sono mai uguali dopo. Non possono agire l'uno verso l'altro come se non avessero passata questa esperienza, la quale fa sì che i diretti interessati diventino una coppia legata indissolubilmente. Il rapporto sessuale crea un legame carnale con tutte le sue implicazioni. La moglie di Potifarre non compì l'atto sessuale perché Giuseppe glielo impedì, ma il suo insistere per riuscirvi le è stato fatale. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti.